Inizia il giorno, il sole ormai è alto, non c'è traccia di me sull'asfalto, la radio strilla forte, io con lei, devo fare in fretta anche se non vorrei, tutti mi aspettano chissà poi perché, ho parole per te. Il giorno per così dire il nuovo inizio.